ragioni per le quali occorre pregare. Per una persona, rivolgersi a Dio costituisce certamente il momento più importante della sua vita. Non si tratta di parlare con cose inanimate, che non hanno la possibilità di ascoltarti, come statue o idoli. Non si tratta neppure di parlare con altre persone come te, perché non sempre sono disposte ad ascoltarti, e soprattutto, non possono comprendere fino in fondo il tuo animo. Ma pregare il Dio che ci ha creati a sua immagine e somiglianza significa rivolgersi a chi è in grado di comprenderti e, soprattutto, aiutarti. Perciò, la preghiera è uno dei momenti più importanti. Però, a volte succede di sentirsi smarriti al riguardo e, per quanto possa sembrare assurdo, di dubitare sia della validità della preghiera, sia di cosa dire in preghiera. E, giusto mettere in discussione un'abitudine religiosa, perché può anche essere discutibile o sbagliata, come lo è interrogarsi in merito a cosa sia lecito chiedere, quando si va oltre a cose personali. Al primo interrogativo, se è giusta la pratica della preghiera, la risposta non può essere che affermativa, perché Gesù, per quanto fosse figlio di Dio e uomo perfetto, stava spesso in preghiera anche di notte, in luoghi solitari. Luca 5:16, Marco 1:35. Gli apostoli stessi davano alla preghiera un posto importante, al punto che quando fu loro richiesto di interessarsi a problemi pratici inerenti alla comunità, optarono per la scelta di diaconi da adibire a tal compito, per poter così continuare a dedicarsi alla preghiera e al ministero della parola. Atti 6:4. Nelle lettere indirizzate alle chiese, gli apostoli fanno spesso riferimento alla preghiera. Giacomo mette in evidenza che molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia, Giacomo 5:16, mentre Paolo ordina ai Corinzi di pregare in modo intelligente perché tutti siano edificati. 1 Corinzi 14 e 15, e di rivolgere preghiere con un animo puro senza ira e discussioni, 1 Timoteo 2:8, con tutti quelli che invocano Gesù Cristo come loro Signore e Salvatore, 1 Corinzi 1:2. Questi primi aspetti mettono in evidenza che la preghiera non è usata come scopo per organizzare riunioni fra religiosi di tutti i tipi, non è una panacea per ogni problema, ma un rapporto personale, con il Dio Trino, che a sua volta si trasforma in un rapporto collettivo. Come ha scritto l'Apostolo Pietro, fare itti. Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Fare il male, secondo il pensiero di Dio, non è solamente uccidere, rubare, ingannare il prossimo o altre simili cose, ma, come dice tramite il profeta Isaia, ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle, che cammina per una via non buona, seguendo i propri pensieri. Isaia 65:2. Seguire i propri pensieri significa camminare in modo diverso da quello indicato da Dio. Ha mai Dio ordinato riunioni di preghiera fra persone di fede cristiana e quelle che credono in un Dio che non esiste? Poiché la risposta è evidente, non rimane che prendere in esame le ragioni per le quali dobbiamo pregare. Secondo ciò che è scritto nel libro della legge di Dio, dobbiamo 1. Pregare in ogni circostanza. Filippesi 4. Se non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. Alcuni ritengono che Dio sia troppo occupato e troppo grande per interessarsi dei nostri piccoli e limitati problemi, ma ogni cosa che ci sta a cuore, per Dio è ancora più importante. Per Lui, noi abbiamo molta importanza e tutto ciò che ci riguarda, per Lui, ha valore. Dio non si dimentica che siamo polvere. Salmo 103:14 tiene maggiormente presente la nostra fragilità di quanto noi non facciamo. Salmo 39:4, per questo ogni richiesta, anche inopportuna, è da Lui considerata. Perciò, il Dio misericordioso ci darà quello di cui abbiamo bisogno e che sia utile, non quello che chiediamo. Pierino aveva un poco fame e mal di pancia. Chiese alla mamma della cioccolata. La mamma gli diede invece una bevanda non proprio gradita a Pierino, ma la fame passò e il mal di pancia Eppure, Pierino non aveva ottenuto ciò che voleva, ma ciò di cui aveva bisogno. 2. Pregare per gli altri credenti. 2 Tessalonicesi 3:1. Del resto, fratelli, pregate per noi, affinché la parola del Signore possa spandersi rapidamente e sia glorificata, come lo è fra voi. Ebrei 13:18. Pregate per noi, perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. Efesini 6:18. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Una prova pratica del nostro amore per la Chiesa è la preghiera per essa. Ogni servizio all'interno della Chiesa, reso senza lo spirito di preghiera, prima o poi, cessa. Non è l'attività che edifica la Chiesa, ma la preghiera. Quando una testimonianza viene meno, in genere si scopre che la Chiesa da tempo ha cessato di pregare. Proprio per questo la Scrittura ci ordina di pregare per tutti i santi. Questo è riferito sia alla Chiesa locale sia a quella universale. Sono sempre edificanti le parole che rivolse Samuele al popolo di Israele quando questi commise l'errore di volere un re. Quanto a me, lungi da me il peccare contro l'Eterno, cessando di pregare per voi. 1 Samuele mezzogiorno e 23. Samuele riteneva un peccato verso Dio smettere di pregare per il popolo. Potessimo noi correre il rischio di commettere lo stesso errore di Samuele. Samuele pregava per il popolo ogni giorno, ma le situazioni non andavano secondo le prospettive di Dio. Spesso anche noi facciamo questa esperienza quando preghiamo per tutti i santi. Sembra che tutto vada al contrario e siamo tentati di perdere ogni speranza. Anche una ragazza di nome Ioni, dopo l'incidente mediante il quale rimase paraplegica, sprofondando in una forte depressione, chiese a Dio: «Come hai potuto lasciare che tutto questo succedesse a me? Ero già cristiana prima dell'incidente, e se questa è la risposta alla mia richiesta di camminare più vicino a te, non mi fiderò più di pregare. Occorre fede per continuare a pregare per tutti i santi». Secondo Roland H. Benton, al termine della sua vita, Lutero era un vecchio irascibile, petulante, arcigno, insofferente e talvolta francamente grossolano. Non credo, però, che egli lo fosse diventato improvvisamente. Ogni forte personalità ha delle marcate contraddizioni. Nonostante tutto, Samuele non ha smesso di pregare. Aveva compreso qualcosa che a noi sfugge. 3. Matteo 5, 43-45. Pregare per quelli che ci maltrattano e ci perseguitano. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Capita a tutti prima o poi di avere dei nemici, di imbattersi in qualcuno che non si comporta bene dei nostri Per quanto mi riguarda, mi sono spesso trovato in grande difficoltà, non sapendo come comportarmi. Dovevo reagire, dovevo lasciare correre. Spesso il dubbio mi tormentava più del fatto di essere maltrattato o perseguitato. Dio mi ordina, prega per loro. Importante notare che Dio non specifica per cosa pregare, ma afferma solamente prega per chi ti maltratta. Pregare per i nemici non significa chiedere a Dio di risolvere i miei problemi. Ad una certa età non si crede più all'efficacia dei messaggi moralistici. La realtà prevale sulla fantasia e si comprende che Gesù non è venuto per risolvere tutti i nostri problemi o conflitti. Almeno non dal punto di vista delle nostre aspettative. Proprio perché ostinatamente continuano a valutare le situazioni con una mente non rinnovata dallo Spirito Santo, alcuni si trovano in difficoltà, in crisi. Nella parabola, dove i servitori, mossi da una logica umana, chiedono al padrone di estirpare le zizzanie che rappresentano il male, il padrone, Dio, risponde: «Lasciate che crescano entrambi insieme». Gesù non è venuto per togliere il male. Egli lascia che il giusto e il malvagio coabitino. e vuole che il giusto, tramite la preghiera, cambi atteggiamento di fronte al male. La preghiera compie sempre un miracolo. Se non cambia la situazione esterna, cambia il nostro atteggiamento nei confronti del malvagio. La vera preghiera muta non solo la nostra visione del male, ma cambia anche i nostri sentimenti verso chi lo compie. Essa è capace di trasformare l'odio in amore, di trasformare un cuore egoista in un cuore simile a Dio, cioè fare del bene a tutti, indipendentemente da ogni considerazione di merito. La preghiera trasforma un uomo imperfetto in uno perfetto, come è perfetto Dio che è nei cieli. Infatti, Dio ama tutti gli uomini indistintamente, fa del bene a tutti. Così il credente, mediante la preghiera, è spinto a comportarsi nello stesso modo. Allora, sei maltrattato, ti vedi perseguitato, non cadere nel vittimismo. Prega positivamente per chi si comporta male nei tuoi confronti. Credi a questo comandamento e sarai vittorioso su quelli che ti odiano. Una vittoria che ti libera ora e ti rende in grado di ricevere una corona nell'eternità. 4. Matteo 26, 36-41. Pregare per non cadere in tentazione. Uno dei più famosi slogan del mondo cita: prevenire è meglio che curare. Anche nel campo spirituale vale questa regola e la preghiera vi è coinvolta. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui, finché io sia andato là e abbia pregato. E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. E, andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: così, non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Tutti conosciamo questo episodio, ma credo che pochi abbiano capito la lezione. Gesù aveva scelto i discepoli più intimi perché pregassero con lui. Egli si allontanò da loro e pregò, mentre dei discepoli non viene detto nulla. Quando Gesù tornò, essi dormivano. Gesù si rese conto che, nonostante la loro buona volontà, essi non erano stati capaci di resistere alla lecita necessità di dormire. Mosso da tenerezza, Gesù diede un ordine, che è il segreto per una vita cristiana vittoriosa. Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Quando ho voluto meditare l'ordine di Gesù, controllando se effettivamente le traduzioni erano fedeli, ho notato che tutti i traduttori sono d'accordo. Pregate per affinché non cadere o entrare in tentazione. Gesù non ha ordinato di compiere preghiere specifiche affinché la tentazione non ci colga mai, ma di mantenere uno spirito di preghiera costante in modo da non essere tentati. Pregare perché non ci sia la tentazione è una preghiera che Dio non può esaudire, perché gli chiediamo di farci evitare la tentazione. Gesù stesso fu tentato in quanto uomo, pertanto anche noi siamo esposti a tale pericolo. È vero che Gesù ci ha insegnato nella preghiera del Padre nostro a chiedere non indulci in tentazione, ma questa richiesta è un'altra cosa. Gesù non ha detto quello che molti hanno capito, cioè chiedere a Dio di non tentarci. Non è così, perché Dio non tenta nessuno. La preghiera ha come obiettivo la richiesta a Dio di non metterci in condizioni tali da soccombere davanti alla tentazione. E la preghiera del credente, che è cosciente della sua maggiore debolezza e fragilità in alcuni settori della vita, chiede di non essere esposto a certe specifiche tentazioni, ma non chiede a Dio di non essere mai tentato dal maligno, perché sarebbe come chiedere a Dio di non essere scaldato dal sole. Solo una persona cosciente della propria debolezza può fare questa richiesta. Se si vuole quindi evitare di cadere in tentazione, occorre avere uno spirito di preghiera e Dio ci darà anche la via per uscirne. 5. 1 Corinzi 7, 1-5. Pregare come coppia. Così ordina Dio agli sposi. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito, e nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate insieme perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Il matrimonio si presenta come una delle cellule sociali più malate. Si cerca e si è sempre cercato un rimedio a tale problema. E ciò è giusto, ma evidentemente l'uomo non ha una soluzione. Dal momento che i divorzi aumentano e le coppie felici sono sempre più rare, la parola di Dio tratta diffusamente del matrimonio, prende coscienza dei problemi matrimoniali e offre una soluzione, riconosciuta come la giusta medicina da chi la mette in pratica. Mi riferisco alla preghiera. La parola di Dio considera i rapporti sessuali una pratica normale nel matrimonio, stabilendo parità di diritti. Come il marito non ha autorità sul proprio corpo, così pure la moglie. Mi chiedo se questo principio non sia in contrasto con il modo di vedere di alcune donne riguardo all'aborto, le quali affermano il corpo è mio e faccio quello che voglio. Esse devono tenere conto anche del parere del marito. Se il marito è d'accordo, la donna deve ricordarsi di appartenere a Cristo, prima di tutto, il quale considera ogni vita di propria appartenenza, cioè solo lui la può dare, solo lui la può togliere. L'Apostolo Paolo consiglia agli sposi di astenersi dai rapporti sessuali per un breve periodo, onde dedicarsi alla preghiera. È un consiglio, non un ordine. È triste che i cristiani fatichino a credere e ad osservare quanto è scritto. Così, se anche i matrimoni dei cristiani non vanno molto bene, un motivo è la mancata osservanza di questo consiglio. È evidente che per pregare insieme è necessario che i coniugi siano d'accordo. Se uno non vuole pregare, diventa un problema. Come fare? Non ci è certamente la bacchetta magica per invogliare a pregare, ma basterebbe agire per fede, come in tutte le altre decisioni. Se Paolo dà per scontato che due coniugi credenti preghino assieme, e se Paolo non sta scrivendo opinioni proprie, ma ciò che lo Spirito di Dio gli ispira, si può continuare a pregare, con la fiducia che i problemi matrimoniali si risolvono solo con i metodi di Dio. In questo caso, la preghiera, appunto. Se crediamo che la preghiera sia in grado di cambiare le situazioni negative o il nostro atteggiamento verso di esse, non ci rimane che agire per fede. Se, nonostante tutto, un coniuge non vuole pregare, allora le conseguenze negative del matrimonio non dobbiamo attribuirle a Dio, non dobbiamo pensare di aver scelto la persona sbagliata, ma dovremmo molto onestamente batterci il petto. 6. Matteo 9, 35-38. Pregare per gli operai. Nel Vangelo di Matteo leggiamo queste parole. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, «La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe». Gesù, vedendo le folle prive di giusti insegnanti, ordina ai discepoli di pregare il padrone del regno di Dio, che provveda. Non ha detto di darsi da fare, di raccogliere denaro, di consigliare delle persone, di dire al Signore che c'è che è una necessità di mandare delle persone, ma di pregare perché spinga degli operai nel suo regno. In merito alla preghiera, ad eccezione della preghiera modello del Padre nostro, Gesù non è entrato in merito a cosa richiedere, perciò questo specifico ordine relativo alla preghiera deve essere tenuto presente costantemente. Riguardo alla qualità di persone che Dio deve mandare, non è specificato di mandare degli studenti, dei teologi, dei leader, ma degli operai. Il nostro primo compito è ottenere gli operai dei quali il Signore ha bisogno per i vari compiti nella sua vigna. Questo non esclude di certo laureati o teologi, ma devono essere persone che lavorano per il regno di Dio, non per la loro organizzazione, ma per portare anime a Cristo. Dobbiamo dunque pregare perché il padrone della messe spinga degli operai. Il verbo spingere dà l'idea che le persone siano costrette dalle circostanze a dedicare la loro vita per il regno di Dio. Ecco due ragioni perché pregare il Signore della vigna. A. Il pericolo più grande nell'opera cristiana è indubbiamente il fatto che degli operai vi si dedichino, senza essere stati mandati da Dio. Solo Dio conosce a fondo le persone, e una persona, per me idonea, può non esserlo per lui. Noi uomini siamo, purtroppo, inclini a considerare solo l'apparenza. A proposito, penso spesso a Mosè, che aveva un ottimo discepolo, Giosuè. Ma, al momento della sua morte, comunque chiese a Dio chi lo avrebbe sostituito. B. La seconda ragione è che, pregando, dimostriamo di aver compreso la necessità di operai. E, con la preghiera, che ci rendiamo veramente conto del bisogno. Noi invece vogliamo prima conoscere il bisogno e, poi, pregare. Per quanto mi riguarda, ho sentito la chiamata ad evangelizzare 4 anni dopo, in un'evangelizzazione in Sardegna. Dio mi aprì gli occhi e vidi il mondo perduto in una persona anziana che urlava nel suo dialetto, a me incomprensibile. Se avessi evangelizzato solo quando ne ravvisavo il bisogno, molto probabilmente sarei ancora in attesa di farlo. Lo spirito di preghiera aiutava un fratello la mia resa a Dio, mentre con 7 Giacomo 5:13 pregare perché si soffre. C. È tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. La sofferenza non risparmia nessuno. Essa può rendere un uomo santo o un diavolo e la preghiera evita il pericolo di una reazione negativa. È normale che la prima reazione di fronte alla sofferenza sia quella di evitarla, ma non è certamente una cosa saggia, perché Dio la usa per riprenderci, correggerci ed educarci. Ecco perché Dio ordina di pregare mentre si soffre, perché prima di tutto entriamo nello spirito della volontà di Dio, poi impariamo ad essere modellati dalla sofferenza. Dobbiamo sfruttare quindi il momento di benedizione della sofferenza, perché sta scritto che un sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Salmo 51:17. Questa è la promessa di Dio. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Isaia 66:2. Gesù chiamò beati quelli che soffrono. E, delle 9 beatitudini elencate nel Vangelo di Matteo 7, sono rivolte a chi soffre. La sofferenza è uno scrigno di benedizioni che solo la chiave della fede sa aprire. Ioni, una ragazza, divenuta paraplegica in seguito ad un tuffo nell'acqua, è tuttora una fonte di benedizione per il mondo intero, perché ha saputo accettare ogni cosa, come cooperante al bene, per quelli che amano Dio. Sì, tutto coopera al bene, ma non per tutti, solo per chi ama Dio. Ci si può chiedere se Dio compie ancora miracoli come al tempo di Gesù e degli Apostoli, e se si può pregare per una guarigione istantanea, e se questa avvenga. Non credo che Dio sia cambiato, forse siamo noi a esserlo, rispetto ai tempi antichi. Per questo di tanto in tanto Dio opera potentemente e prontamente. Ricordo una ragazza che conduceva una vita libertina, concedendosi sessualmente a molti giovani. Udì il Vangelo, credette in Cristo e mostrò subito i frutti dello Spirito Santo. In una riunione normale espose un suo problema. Cercava lavoro, ma essendo seropositiva, non l'accettavano. Doveva essere sana fisicamente. In quel momento sentì il bisogno di pregare per lei. In modo particolare, chiesi il suo parere e lei annuì. Pregai per lei imponendole le mani. Diede un sospiro e un brivido. Il giorno dopo si sottopose a una visita. Fu trovata sana. Questo episodio dimostra che il Dio dei cristiani non è un distributore automatico di guarigioni immediate, ma è sempre potente a guarire, sebbene non guarisca perché noi lo vogliamo, ma perché questa è la sua volontà. Non è volontà di Dio che tutti i malati guariscano, ma è sua volontà che tutti, sani e malati, glorifichino il suo nome. Uno può glorificare Dio mediante la guarigione, un altro, nel corso della malattia. Perciò è possibile non dare gloria a Dio pur essendo stati guariti. Sembra assurdo, ma secondo alcune testimonianze, alcuni guariti hanno perso la fede. 8. Giacomo 5, 16-18. Pregare gli uni per gli altri perché possiamo essere tutti guariti. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Egli era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. La malattia fa parte dell'esistenza umana. È sbagliato affermare, come alcuni sostengono, che tutte le malattie vengono dal diavolo. Alcune malattie sono volute da Dio, altre sono la conseguenza dei nostri errori. In certi ambienti cristiani, in caso di malattia, si penserebbe subito di imporre le mani. Si penserebbe di fare una riunione speciale di preghiera, ma il comandamento di Giacomo è una grande sfida per la nostra fede: pregare gli uni per gli altri. Vi sono dunque malattie fisiche e spirituali, che sono il risultato della mancanza di preghiera. È importante notare che la Scrittura ordina semplicemente di pregare, ma non per richiedere la guarigione gli uni degli altri, perché è Dio a conoscere quale tipo di guarigione faccia al caso di ciascuno. Gli amici di Johnny pregavano 24 ore su 24 per la sua guarigione fisica, ma Johnny si rese conto che per Dio la sua guarigione, il suo bene, non riguardava tanto il suo fisico, piuttosto la necessità di un atteggiamento più flessibile. L'apprezzare le piccole cose e imparare ad avere una gioia che non dipende dalle circostanze. Come disse, la mia sedia a rotelle è la prigione che Dio ha adoperato per liberare il mio spirito. Come prova che la preghiera funziona, Giacomo porta l'esempio del grande profeta Elia. Per quanto avesse onorato Dio con atteggiamenti eroici, Giacomo mette in evidenza che Elia fu esaudito non perché era grande, ma nonostante fosse fragile e debole come ognuno di noi. Mi edifica pensare che i grandi uomini di Dio sono esseri come me e te. E il messaggio del mondo a creare un'immagine sbagliata dell'uomo di Dio, quale eroe solitario, impavido, autosufficiente, perfetto e di nulla mancante, un microcosmo completo. Elia era soggetto alla tensione della tentazione di ogni essere umano. La Bibbia, Diodati, dice: eppure pregò, come per dire, nonostante tutto quello che era e che succedeva, pregò. Che lezione! Quando non siamo disposti, se non siamo in vena, pensiamo di sbagliare mettendoci in ginocchio davanti a Dio, non è vero? Eppure anche quelli sono momenti preziosi. Come pregò Elia, nonostante tutto, il Nuovo Testamento insieme al Nuovo Testamento è, per quanto mi riguarda, non sono un uomo che, per dedicarsi alla preghiera, si organizzi con un tempo stabilito e regole fissate, ma il mio cuore e il mio spirito sono intensamente e costantemente rivolti a Dio. Cammino e parlo, tenendo presente di farlo davanti a Dio, o come è stato detto di Davide, tengo del continuo il Signore davanti a me. Atti 2:25. E questo nonostante avesse commesso adulterio, omicidio, tradimento, inimicizia, inganno e orgoglio nel fare il censimento. Una partita persa non pregiudica il campionato. 9. 2 Corinzi 12, 8-9. Pregare per le proprie malattie. E perché io non avessi insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Come abbiamo detto, siamo chiamati a pregare per tutti, per gli ammalati, per l'opera di Dio, ma è anche giusto intercedere per le proprie necessità. L'Apostolo Paolo, fedele agli ordini di Gesù, non ha mai pregato per avere del cibo e per il vestiario, perché, come disse, aveva imparato ad accontentarsi di quello che aveva. Ma, essendo un essere umano come tutti, anche lui soffriva in modo particolare per un tipo di malattia, per la quale implorò. Molto probabilmente, affetto da un forte dolore alla vista, chiese a Dio per 3 volte di toglierlo. Dobbiamo notare in questa testimonianza alcuni particolari molto interessanti. Il primo, che ritenne la propria sofferenza un motivo per non inorgoglirsi. Questa verità dovrebbe essere tenuta presente da ogni credente, perché lo scopo principale di Dio non è evitarci difficoltà e dolori, ma renderci sempre più conformi alla sua santità, scopo per il quale non vi è altro strumento che forgiarci nel dolore. Se Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, Ebrei 5:8, chi siamo noi da dover imparare l'ubbidienza in modo diverso? La testimonianza di Paolo ci insegna un'altra grande verità. Non si può pregare all'infinito per una propria necessità. Per la sua sofferenza Paolo pregò 3 volte, non per anni. Un grande esempio di perseveranza nella fede nonostante tutto, perché è risaputo che Dio esaudisce l'insistenza nelle preghiere, anche se non è d'accordo. La Scrittura ricorda che Dio ha esaudito Satana in merito a Giobbe, che Gesù ha esaudito i demoni perché andassero nei porci, che Dio ha pure esaudito il popolo di Israele quando chiese un re, anche se non era consenziente. Perciò è molto pericoloso chiedere con una certa ostinata insistenza. Potremmo ottenere quello che non è adatto per noi. Ezechia era un re che temeva l'Eterno. Quando si ammalò mortalmente pregò l'Eterno di non morire. 2 Re capitolo 20. Fu esaudito e Dio gli allungò la vita di 15 anni. Dopo di lui iniziò a regnare a 12 anni suo figlio Manasse, che aveva generato in quel periodo, il quale è ricordato come colui che si dedicò completamente a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocandolo ad ira. Re 21:7. Forse qualcuno avrà pensato che era meglio che Dio non lo avesse esaudito, ma quando non esaudisce, Dio viene tacciato per insensibile. Dice il vero quella canzone. Se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, bene non va mai. Il tema della preghiera è così vasto che conviene terminare con altri esempi molto brevemente. L'Apostolo Giovanni scrive di pregare per il proprio fratello, che commettere un peccato che non sia a morte, cioè una trasgressione già perdonata da Gesù. 1 Giovanni 5:16. Mentre l'Apostolo Paolo pregava spessissimo per Timoteo, suo figlio spirituale, Filippesi 1:4, 2 Timoteo 1:3. Nei Vangeli leggiamo che Gesù ha pregato perché la fede di Pietro non venisse meno, Luca 22:32. Una preghiera che non deve cessare nel cuore di chi ama Gesù Cristo. Se dovesse venir meno, il primo spontaneo e sincero amore è certamente tramontato. Gli apostoli, dopo essere stati incarcerati e minacciati, si trovarono con gli altri discepoli e pregarono per la situazione che si era creata. A quel punto il luogo dove erano riuniti tremò. Atti capitolo 4. In seguito, la terra non continuò a tremare, ma la preghiera è in grado di far tremare gli obiettivi dei malvagi, anche quando non ce ne accorgiamo. Quante volte siamo stati liberati dalle trappole di chi ci odia, senza esserne coscienti? I primi cristiani non vivevano in un tempo di pace e di onorevole giustizia, perciò molte volte si trovavano in carcere, ma chi temeva Dio pregava per loro, come hanno fatto i primi cristiani con l'Apostolo Pietro. Atti capitolo 12. In una occasione Pietro è stato liberato, ma i piani di Dio non sono sempre quelli. Tanto è vero che in seguito Pietro e altri 10 apostoli sono stati martirizzati. Solo Giovanni morì in esilio di morte naturale, in un'isola dove era esiliato a causa della sua fede. Gli apostoli hanno spesso detto ai discepoli di pregare per il ritorno di Cristo, per porre fine al male presente. perché sia stabilito un regno nel quale giustizia abita, perché la Chiesa possa regnare con Cristo. Per questo dissero: state attenti, vegliate e pregate, perché non sapete quando sarà quel momento. Marco 13 e 33. Non a caso, l'ultima preghiera che troviamo nella Bibbia è: vieni Signore Gesù. La preghiera presso i primi cristiani costituiva la normale prassi prima di stabilire dei conduttori. In una chiesa, Atti 13, 3, 6, 6, una pratica che non dovrebbe assolutamente mancare nel XXI secolo, perché se i conduttori risultano non essere idonei o la Chiesa non prega, oppure essa è degna di avere simili conduttori. Infine, nelle loro lettere notiamo che gli apostoli pregavano perché l'amore dei credenti fosse sempre più in conoscenza e discernimento, Filippesi 1, 9, e perché arrivassero al perfezionamento, 2 Corinzi 13, 9, e all'altezza della statura perfetta di Cristo. Concludo queste mie riflessioni con alcune perle di saggezza, e se qualcuna potrebbe anche non essere una vera perla, come è stato ben detto, anche un bastone storto aiuta a camminare. Soltanto Dio può spostare le montagne, ma la fede e la preghiera spostano Dio. La preghiera rafforza i deboli e indebolisce i forti. L'atteggiamento che abbiamo verso la preghiera e l'uso che facciamo della preghiera stessa dipendono dal concetto che di essa abbiamo. Daniele ha preferito passare una notte con i leoni che un giorno senza preghiera. Non pregare per la pioggia se poi ti lamenti. Chi si prende tempo per pregare ha anche tempo per ogni altra cosa da fare. Coloro che sono soddisfatti di sé non vogliono pregare. Coloro che sono autosufficienti non hanno bisogno di pregare. Coloro che sono convinti di sé non possono pregare. Dobbiamo pregare quando siamo ben disposti, perché sarebbe un peccato sciupare una così buona occasione. E dobbiamo pregare quando non siamo ben disposti, perché sarebbe pericoloso continuare a rimanere in uno stato così insano. Sono troppo occupato, disse Lutero, per poter pregare meno di 3 ore al giorno. Che questa forma di respiro della nostra anima non venga mai meno. Settembre 2012, Ellero.